ci ha raggiunti per parlare di Calvino Serenella Iovino, professoressa ordinaria di Italian Studies e Environmental Humanities all'Università del North Carolina. Buongiorno, benvenuta a Radio Città Fujiko. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie dell'invito. Lei è autrice degli animali di Calvino ed è un libro che si propone di analizzare il ruolo degli animali nella narrativa calviniana e di analizzare come riveli, diciamo, una particolare visione del mondo da parte dell'autore. Che valore hanno gli animali nella narrativa di Calvino? Parlare di Calvino senza animali è possibile? Io credo di no. Vediamo innanzitutto il primo libro che lui scrive, Il sentiero dei nidi di ragno. Ok, vediamo il secondo, ultimo viene il corvo. Vediamone altre, il barone rampante. Togliamo gli animali dal barone rampante. Abbiamo il barone rampante? No, perché non abbiamo il piatto di lumache, quindi non abbiamo per Cosimo nessun motivo per salire sugli alberi. Non abbiamo un compagno di avventure, un compagno di caccia, il cane bassotto ottimo Massimo, quel cane che striscia che accompagna l'uomo che vola. Cosimo. Andiamo avanti, non lo so, Marco Valdo senza il piccione comunale, Marco Valdo senza le vespe, Marco Valdo senza il coniglio velenoso, Marco Valdo senza i gatti ostinati. E ancora alle cosmicomiche, che cos'è Cuff se gli togliamo tutte le sue avventure zoologiche? Che cos'è Palomar senza animali? Calvino è uno zoologo, nel senso che lui dà parola, logos, agli animali, tantissimi ce ne sono nella sua narrativa, quindi io direi che forse si potrebbe dire che il mondo animale passa attraverso la scrittura di Calvino come attraverso il suo narratore più curioso, fedele, poliedrico e sicuramente generoso, perché Calvino ha una grande prerogativa, lui non soltanto ci fa vedere gli animali, ma ci fa vedere come vedono loro, quindi appunto se saliamo sul terrazzo della casa di Via Campo di Marte, dove abitava Calvino e dove, non ci dice l'indirizzo, stava anche il signor Palomar, a un certo punto ci ritroviamo in volo sui tetti di Roma, della città con la sua essenza giunonica, e a un certo punto non vediamo più quello che vede il signor Palomar, ma vediamo quello che vedono gli storni o i piccioni lumpen pennuti. Parzialmente ha già citato alcuni titoli, però quali sono a suo avviso i libri di Calvino che riflettono di più, diciamo, una consapevolezza ecologica? Consapevolezza ecologica. Calvino è sicuramente consapevole dell'eco, oikos. Lui ovviamente nasce a Cuba, ma lui dice sono nato talmente a Sanremo che sono nato in America, che significa che tutti i sanremesi in realtà emigravano e quindi lui è andato a nascere in America per poi ritornare a Sanremo, che era la sua casa, il suo oikos, anche la sua ecologia, un'ecologia fatta di, tra virgolette, natura, ma anche un'ecologia della mente, perché Calvino viene educato in un giardino botanico, Villa Meridiana, che era appunto una stazione di floricoltura sperimentale. Lì certamente, insieme alle piante coltivate e studiate dai genitori, c'erano anche tanti animali. Io penso che potremmo partire proprio da un racconto di Ultimo viene il corvo. Il racconto è il racconto di apertura, Un pomeriggio ad Amo, in cui Calvino narra proprio l'incontro di un giovane che si chiama Libereso e che nella realtà si chiamava Libereso Guglielmi ed era il giardiniere, il giovane borsista di Mario Calvino. Libereso, che quindicenne, lui già anarchico, già vegetariano, già Libereso appunto, che è stato un grande personaggio, dona a una fanciulla che è lì di servizio presso la casa dei Calvino degli animali, dei piccoli animali, e questo incontro, questi animali sono una biscia, dei rospi, delle cetonie, ossia degli scarabei, addirittura anche delle formiche argentine. È un racconto di creazione, perché nel dare queste cose Adamo, ovvero Libereso, dà anche dei nomi alla realtà, ed è una realtà popolata di animali, quindi una consapevolezza ecologica di Calvino passa attraverso la sua casa, il suo oikos, il suo eco e il mondo popolato di specie diverse, vegetali, animali, e tra queste in maniera accidentale ci capita anche l'umano, però appunto non è centrale, è di compagnia con tutte le altre, e quindi un'allegra brigata di viventi. Tra l'altro, rispetto appunto, diciamo, allo sguardo anti-antropocentrico, Calvino però allarga molto la prospettiva, ha scritto anche, insomma, della bomba atomica, ha trattato delle risorse energetiche, della desertificazione. Il suo sguardo su queste tematiche è ancora attuale per quanto possibile, secondo lei? Come no? Certo che lo è. Calvino, certo, purtroppo lo è ancora. Lei ha citato questo articolo sulla bomba atomica. Beh, Calvino ne scrive vari, ma ne scrive in particolare uno nel 1946 in cui commenta i famosi test nucleari che la Marina americana fa presso l'atollo di Bikini nel Pacifico. Lì vengono sacrificati, metto questa parola tra virgolette, moltissimi animali, migliaia di animali. Si parla delle capre di Bikini perché ovviamente l'articolo di Calvino si intitola Le capre ci guardano, e lui si chiede proprio che cosa penseranno le capre a Bikini, che cosa penseranno i cani nelle case bombardate, i gatti sotto le bombe, cosa penseranno i pesci colpiti dai siluri. Ne nomina pochi, ma in realtà di animali lì ce n'erano migliaia, ce n'erano tantissimi, c'erano molti maiali, c'erano tantissimi insetti. Non c'erano cani o gatti, ma i cani e i gatti bombardati li abbiamo visti e li vediamo, anzi li abbiamo visti forse più all'inizio della guerra in Ucraina, e ci hanno colpito moltissimo. Questo ci fa capire che nelle guerre non muoiono soltanto gli esseri umani, e Calvino lo sapeva molto bene. E infatti lui denuncia l'ipocrisia umana nel momento in cui noi di questi animali facciamo degli eroi, ma senza contare che le vittime sono vittime di tutte le specie, e una vittima è la terra. Comunque è vero, Calvino, che ha scritto sempre per tutta la sua vita, ha scritto con giornali, ha cominciato con l'Unità e ha continuato poi con il Corriere della Sera, la Repubblica, e sicuramente i suoi contributi sono contributi ecologici o comunque ambientali. Ce n'è uno che si intitola, un famoso articolo che scrive nell'estate del 76, che si intitola Un'estate di disastri, e lo scrive a seguito appunto dell'incidente di Seveso. Ce ne sono altri, un altro si intitola Il superfluo ed è sulle scorie, sui nostri rifiuti, che fine fanno. Ne scrive veramente tanti, quindi io credo che Calvino sia, anche dal punto di vista della sua produzione giornalistica, estremamente attuale. Carla Benedetti individua l'eredità di Calvino nell'idea che, cito, nessuna storia, nessun pensiero umani possano darsi se non situandosi in rapporto a tutto ciò che esiste indipendentemente dall'uomo, e nell'idea che Calvino cerchi la soluzione, diciamo, in un sapere che unifichi il mondo della scienza moderna e quello della scienza antica. Lei è d'accordo, e secondo lei come ottiene questa cosa Calvino? Io non sono tra coloro che credono che esista solo il linguaggio o solo il pensiero umano. Io credo che il mondo esista indipendentemente dall'uomo. Il mondo esisteva prima dell'uomo ed esisterà dopo, e quindi l'uomo è solo un'occasione che il mondo ha per organizzare alcune informazioni su se stesso. Quindi la letteratura per me è una serie di tentativi di conoscenza e di classificazione delle informazioni sul mondo, il tutto molto instabile e relativo, ma in qualche modo non utile. Questo è Calvino, non sono io. Certo, è un'intervista del 67 alla Radio Svizzera. Certo che sono d'accordo con Carla Benedetti, e come non si può non essere d'accordo con Carla Benedetti, che è una delle massime esperte non soltanto di Calvino ma anche della nostra contemporaneità letteraria. Calvino nasce in un ambiente scientifico, e in questo ambiente scientifico lui conosce il mondo e lo trasforma in storie, in letteratura. Quindi Calvino non è possibile pensarlo se non a cavallo di questi mondi, che non sono separati in lui. Scienza moderna, scienza antica, in realtà sono anche delle immagini che lui si porta presso. Sono immagini proprio, non voglio dire in quanto archetipi, ma anche in quanto simboli, in quanto mondi che lui mette in comunicazione, che gli danno proprio un'energia narrativa che gli permette di spiegare la realtà, ma di spiegarla in maniera, se vogliamo, sempre provvisoria, perché la scienza è sempre provvisoria. Non esiste una scienza che sia scritta nella pietra, e anche se Calvino scrive anche sulle pietre, essere pietra, e dice appunto che la pietra resta e l'uomo passa. Il tempo delle pietre è un tempo che comprende il tempo dell'uomo. Da questo dovremmo imparare. Quindi il tempo della scienza è un tempo umano, come lo è il tempo della letteratura, però è il tempo in cui noi siamo, è anche il linguaggio che ci permette di parlare e permette al mondo di parlare attraverso di noi. Quindi certamente Calvino è uno scrittore che fa della scienza un suo bacino di utilizzo, un suo linguaggio, un deposito di immagini, e le trasforma in letteratura in una maniera che ci dà proprio la possibilità di vedere la combinazione delle cose che esistono in realtà. Quindi Calvino è un grande amplificatore per me. Credo di non essere l'unica persona che attraverso Calvino si è trovata proiettata nello spazio cosmico, alla caccia di appunto dei disegni nello spazio ancora, oppure ripercorrere con lui non so, l'evoluzione dai pesci polmonati ai mammiferi, o ancora a parlare con l'uomo di Neanderthal o con Montezuma, insomma. insomma, certamente abbiamo una grandissima possibilità leggendo Calvino, che è quello di trovare il mondo al di fuori del self, questo mondo che parla con una voce che assomiglia alla nostra, ma che di fatto esprime tutto quello che noi non siamo. Secondo lei, in qualche modo, penso soprattutto a Palomar, perché mi viene in mente la serie di racconti in cui sta facendo la spesa, se secondo lei ci sia in Calvino una forma di tentativo di consumismo critico quasi prima che esistesse in qualche modo il concetto di consumismo critico? Marco Valdo al supermercato, certamente. Consumismo critico, consumo critico. Certamente Calvino vive in un'epoca in cui ci sono delle merci e sono lì esposte sugli scaffali e sono desiderabili, ma Calvino vive nell'epoca del capitalismo maturo, sapeva benissimo ciò di cui parlava e sa benissimo che la realtà sa farsi desiderare e sa anche smaterializzarsi davanti a chi cerca di afferrarla e sa anche quali sono i meccanismi per colpire l'immaginazione dei consumatori. È ovvio che Calvino ovviamente queste cose le dice e le collega appunto alla dimensione cittadina dell'uomo moderno, dell'individuo moderno. Infatti io credo che forse ancora più di Palomar è proprio quel racconto di Marco Valdo, appunto Marco Valdo al supermercato, che ci fa capire la crisi dell'uomo consumista, non solo consumatore. E in Palomar, se posso, io vedo qualcosa di diverso. Vedo un'altra declinazione della civiltà, che è quella che lui dice appunto delle simbiosi con le altre specie. Ecco, possono essere simbiosi con i batteri, con i mammiferi che producono latte nella boutique dei formaggi, per esempio, che è comunque per lui una sorta di museo. In macelleria, il marmo e il sangue, per esempio, Calvino ci dice anche qualcosa di diverso, che secondo me incontra molto il discorso femminista, e cioè ci dice che di fronte a lui c'è il corpo del suo fratello squartato. Molto spesso noi dimentichiamo, quando consumiamo carne, che la bistecca che abbiamo nel piatto è parte di un corpo. Figuriamoci pensare che è parte di un corpo fraterno. Calvino lo sa. Il signor Palomar lo sa, così come lo sa per esempio Carol Adams, che scrive un famoso libro che si intitola La politica sessuale della carne, che appunto paragona e mette in parallelo il modo in cui il corpo della donna viene trattato con il corpo degli animali, dei bovini per esempio, i tagli di carne. E praticamente lì sia la donna, sia le donne, che appunto gli animali che consumiamo sono nello stesso sistema linguistico, e questo è sicuramente una forma di dominio politico forte, fortissimo, una giustificazione, una naturalizzazione del corpo della donna e quindi della sua agentività, della sua capacità di agire e di autodeterminarsi. Io credo che Calvino forse non aveva esattamente in mente questo quando parlava del corpo del suo fratello squartato, però sicuramente sarebbe d'accordo con Carol Adams. Credo che però Calvino volesse dire anche un'altra cosa, cioè che noi siamo degli onnivori che vivono in un dilemma. E questa è un'altra cosa che mi ricorda un altro libro, Michael Pollan, Il dilemma dell'onnivoro, che viene pubblicato in italiano da Adelphi, per esempio. È molto famoso questo libro. E il dilemma dell'onnivoro è proprio questo, cioè noi siamo consumatori di carne, anche se sappiamo che cosa comporta il consumo della carne. Comporta una forma di alienazione dalla realtà vivente che noi siamo. Però, ecco, onnivori significa che la carne noi ci siamo evoluti per consumarla. E quindi riconoscere allo stesso tempo che noi siamo predatori e prede è un atto di onestà intellettuale e biologica, e Calvino lo sa, perché sa anche, e lo fa vedere benissimo in Marco Valdo per esempio, che l'essere umano non è soltanto un predatore ma è anche una preda di sistemi incrociati di potere, una preda anche di altri animali. Pensiamo alle vespe che inseguono Marco Valdo per pungerlo, quindi in qualche modo per farlo loro, insomma. I gatti, certo, in quel caso competono per una trota, e quindi ecco la triangolazione del vivente preda-predatore è completa, insomma. Però Calvino ci dice anche una cosa molto interessante, ci dice che a questo dilemma non c'è una soluzione logica. Convivono nell'animo di chi guarda quel corpo squartato allo stesso tempo la pietà e il desiderio. E dice: questa è la stessa cosa che noi, è lo stesso sentimento che portiamo nella preghiera. Del resto, i cristiani consumano il corpo di un'altra persona, quindi insomma l'Eucaristia è un atto, se vogliamo, sacro di cannibalismo. Calvino non volendo, ci fa riflettere anche su questo. Sì, a me è sempre piaciuto moltissimo che lui dica che è un equilibrio asimmetrico, perché noi ci nutriamo del bue, ma il bue non si aspetta di nutrirsi di noi, che secondo me è sempre in Marmo e Sangue, che secondo me è un ribaltamento che sembra banale, ma non lo è per niente. Beh, ma il bue è un erbivoro, quindi anche volendo non ci potrebbe, anzi, diciamo che, ecco, questo è un punto interessante, perché è stato proprio l'uso di farine animali date appunto a erbivori che ha determinato, per esempio, il morbo della mucca pazza, quindi... Ecco, anche l'ignoranza ecologica e zoologica è un fattore che, unito al consumismo e alla perdita di realtà che comporta appunto l'alienazione anche della nostra, della consapevolezza che quello che stiamo mangiando è carne, ecco, non sappiamo nemmeno che è un animale che non mangia carne, gli diamo da mangiare carne, quindi facciamo impazzire il ciclo biologico e le ricadute poi sono sulle nostre spalle, nei nostri organismi, quindi io credo che questo sia anche molto indicativo del nostro rapporto con il pianeta. Calvino lo sapeva tutto questo. Grazie mille. Grazie a voi.